2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Ogni settimana scopriamo insieme come la tecnologia sta plasmando le nostre vite, le nostre aziende, l'ambiente che ci circonda, le nostre città, il modo con cui viviamo, lavoriamo e facciamo ad esempio viaggi oppure spendiamo soldi. In questa puntata parleremo ad esempio di come cambia il mondo della banca, di come cambia il modo con cui spendiamo soldi. Iniziamo da una delle notizie più importanti della settimana, che riguarda un gruppo di hacker che è riuscito a battere un record. Non è proprio un record di cui andare fieri, oddio, se uno è un criminale probabilmente va fiero, perché questo gruppo di malicious hacker, di hacker cattivi, è riuscito ad estorcere $1 milione da un'azienda sudcoreana che si occupa di web hosting, che quindi ospita siti internet. Almeno in base alle notizie pubbliche, questo è il record di soldi guadagnati con un software ransomware. Allora, l'attacco aveva bloccato 3.400 siti web ospitati sui server di un'azienda, di questa azienda che si occupa di siti internet, che ha deciso poi di pagare il riscatto chiesto dagli hacker. Evidentemente non ha trovato altra soluzione, non erano state prese contromisure preventive e quindi l'unica soluzione è stata quella di pagare. La richiesta iniziale era di 550 bitcoin, che corrispondevano ad un valore di $1.62 milioni, scesi poi a circa $1 milione. Nel caso specifico, secondo alcuni ricercatori di Trend Micro, si tratta di un malware che colpisce server Linux e sarebbe concentrato in Corea del Sud. Però va detto, lo ricordiamo spesso a 2024, che gli attacchi ransomware, questo tipo di estorsione digitale, cioè attacchi con malware che colpiscono, aggrediscono i file residenti in un'azienda, li criptano, cioè li bloccano, e quindi le persone, i dipendenti dell'azienda non riescono più ad accedere ai file. In questo caso, ad esempio, erano stati bloccati proprio i contenuti di questi 3.400 siti web ospitati presso quell'azienda. L'unico modo per sbloccarli, se uno non è riuscito ad adottare contromisure, ad esempio avere un efficace backup, l'unico modo è pagare. Oddio, è anche vero che in alcuni casi gli esperti dicono che non bisogna pagare, perché non sempre pagando questo riscatto digitale si ottengono le chiavi di cifratura e quindi si riesce poi a ritornare in possesso dei file contenuti in azienda. Quindi molto spesso si sconsiglia di pagare, però è anche vero che se uno non ha altre soluzioni, la disperazione porta a questo risultato. Questa è una notizia ufficiale che è uscita in settimana e quindi porta a dire che è stato battuto il record di soldi guadagnati con un software, con un ricatto ransomware. Poi probabilmente nel mondo ci saranno stati casi di aziende che hanno pagato senza dirlo, senza pubblicamente annunciare questo fatto, quindi probabilmente potrebbe anche esserci un'azienda che ha pagato più di $1 milione, però sicuramente è una cifra molto importante e ha fatto notizia. Altre notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. E tra le altre notizie importanti c'è quella che riguarda l'aggiornamento della classifica dei più potenti supercomputer al mondo. Potete visitarla, guardarvela, ci sono anche un po' di notizie molto interessanti. Si trova al sito internet top500.org. Allora, nelle prime due posizioni si confermano due supercomputer cinesi, ma la notizia di questo giugno, perché la classifica viene aggiornata a novembre e a giugno, allora, è che il terzo posto viene occupato dal supercomputer svizzero che si trova ed è ospitato dal Swiss National Supercomputing Center. E questa è una notizia importante perché ci racconta della determinazione degli svizzeri nel proseguire nel mondo della ricerca, perché sapete che la presenza di un supercomputer o di più supercomputer all'interno di una nazione è strettamente correlata alla capacità di fare ricerca, di fare anche ricerca industriale, calcolo per creare nuovi prodotti e nuovi servizi. Quindi c'è chi dice che anche il grado di competitività di una nazione si lega alla presenza di supercomputer. Al quarto posto c'è il Titan americano e quasi tutte le posizioni, tra comunque buona parte delle posizioni dalla 4 alla 10 sono occupati da supercomputer americani che hanno spesso avuto la leadership, ma da un po' di tempo che i cinesi hanno rubato le prime posizioni. Da segnalare la posizione 7-8 per due supercalcolatori giapponesi. Venendo invece all'Italia, il più potente tra i supercomputer italiani è quello del Cineca, che però scivola dalla posizione numero 12 alla 14. Al 33esimo posto c'è il supercomputer dell'ENI. A proposito del legame che c'è tra competitività di una, in questo caso, azienda o comunque di una nazione e la capacità di calcolo. L'ENI, che è una grandissima azienda, una tra le più grandi aziende al mondo, sa benissimo che per fare ricerca di nuovi pozzi petrolifici o comunque per fare simulazione anche per prima di perforare un pozzo petrolifero bisogna avere capacità di calcolo e calcolatori estremamente potenti. Per un'azienda singola avere la posizione numero 33 è sicuramente un ottimo risultato, tenendo conto che invece le altre posizioni sono quasi tutte, almeno le primissime posizioni, sono quasi tutte di centri di ricerca finanziati o da, dai militari o altre, da altre entità simili oppure dal mondo della ricerca. Cresce del 25%, così cambiamo notizia, cresce del 25% il mercato legato alle tecnologie collegate ad Industria 4.0. Vale in Italia circa 1,7 miliardi, la stima dell'Osservatorio Industria 4.0 della School of Management del Politecnico di Milano. Numeri che potrebbero crescere ulteriormente, anzi sicuramente lo faranno quest'anno, grazie al Piano Nazionale Industria 4.0. Il grado di conoscenza del tema è elevato e questa è una buona notizia, però la maggior parte degli investimenti riguarda tecnologie di base, quindi nulla di particolarmente sofisticato. L'osservatorio ha individuato nel mondo 245 start-up finanziate a livello internazionale, nate tra il 2011 e il 2015, attive nell'ambito di Industria 4.0, capaci di raccogliere finanziamenti complessivi per oltre 2 miliardi di dollari. Di queste start-up, 24 sono nate in Italia. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di cartoni animati. Allora, Il gatto con gli stivali è il nuovo cartone animato disponibile su Netflix ed è il primo contenuto interattivo in streaming. Che cosa vuol dire interattivo? Che arrivati ad un certo punto si deve scegliere come fare terminare l'episodio, quindi si sceglie il riquadro di destra o quello di sinistra e la trama del cartone animato sarà diversa a seconda della scelta che facciamo. Anche Spotify sperimenta e da pochi giorni sta facendo un test per sondare nuove strade per guadagnare soldi. Allora, si tratta delle canzoni sponsorizzate, brani musicali che vengono suggeriti agli utenti, sia quelli paganti sia quelli che invece non pagano un abbonamento, e sono promossi dalle case discografiche, quindi brani sponsorizzati. Ricordiamo che a fronte di 140 milioni di utenti in tutto il mondo, circa 50 milioni sono abbonati, quindi pagano un canone mensile di circa $10 o 10 euro, un fatturato che supera i 3,3 miliardi di dollari, ma il sito perde ancora 390 milioni perché deve pagare i diritti musicali, quindi deve cercare nuove fonti di finanziamento, comunque deve cercare di aumentare gli utenti. Un'ultima notizia riguarda l'Italia, è attivo anche nel nostro paese Lego Life, il social network della Lego, dedicato ai bambini fino a 13 anni che permette di scambiare immagini, commenti oppure giocare, con un occhio d'attenzione alla sicurezza perché il tutto avviene nascondendo l'identità dietro ad un avatar che ha la forma di un personaggio dei Lego. Molta attenzione appunto è dedicata alla sicurezza e alla protezione dei dati personali e c'è un legame tra tutto quello che si fa e l'autorizzazione dei genitori. parliamo del settore FinTech, che è una parola formata da finanza e tecnologia, FinTech. Un settore formato da nuove aziende che si sono inventate servizi utilizzabili spesso da applicazioni per smartphone legati appunto alla finanza, alla gestione del risparmio, ai pagamenti, alle assicurazioni, ad esempio. Questo è un altro settore che cambierà molto nei prossimi anni. Nel primo trimestre del 2017 in Europa le nuove startup FinTech hanno raccolto 1,1 miliardi di euro. Hanno raccolto un sacco di soldi qualche anno fa e adesso ne stanno raccogliendo un po' meno, però insomma continuano a raccogliere soldi. I due poli d'attrazione principali sono Londra e Berlino. Vedremo quello che succederà con la Brexit, vedremo come si riconfigurerà la mappa del fintech in Europa. Molto interessante quello che sta succedendo nel nord Europa, dove ci sono molte fintech con delle idee molto fresche, molto moderne. In Italia si contano 110 startup fintech, poi alcune sono borderline, non si sa se sono veramente fintech o altro. Sicuramente i due nomi più importanti sono Money Farm, che ha raccolto finora finanziamenti per 23 milioni di euro e ha soci come Allianz, ad esempio. E poi c'è Satispay, che entro agosto dovrebbe annunciare un nuovo finanziamento. Tra l'altro di Satispay parleremo tra poco, perché c'è una notizia che riguarda questa startup interessante nel segmento dei pagamenti. Però visto che parliamo di finanza e di tecnologia, che cosa fanno le banche? Allora, le banche ovviamente si muovono un po' più lentamente rispetto alle start-up e si muovono in varie direzioni, cercando di innovare internamente, finanziando, comprando o attivando collaborazioni con le start-up. E oltre al mercato, quello che succede spontaneamente nel mercato, anche la regolamentazione del settore spinge verso un uso più veloce della tecnologia. Ad esempio, c'è una nuova direttiva che nel settore ormai è diventata una parola d'ordine, se ne parla tantissimo, che entrerà in vigore il prossimo gennaio, conosciuta come PSD2, Payment Service Directive, una direttiva europea che riguarda i pagamenti, favorirà la nascita di nuovi attori nel settore dei pagamenti e in qualche modo obbliga le banche ad aprire al mercato i propri servizi, soprattutto i propri sistemi informatici. Banca Sella, che si è sempre distinta per essere una banca smart nel settore dei pagamenti e soprattutto verso la tecnologia, ha lanciato un progetto che si chiama Open Bank, banca aperta, che permette alle imprese di fare dialogare i propri sistemi informatici con quelli della banca, ma fa molto di più, è una cosa che in prima battuta riguarda gli sviluppatori software, ma ci dà un'indicazione di come si sta trasformando, come si sta aprendo questo mondo. Doris Messina è responsabile del settore Open Banking del gruppo Banca Sella. Benvenuta 2024. Grazie. Stiamo parlando ovviamente di tecnologia, ma che cos'è Open Bank? Open Bank è effettivamente una cosa tecnologica, è la banca che si apre, che mette a disposizione i tasselli del proprio sistema informativo all'esterno per rendere disponibili le singole funzioni alle imprese che vogliono implementarle e consentirne la totale personalizzazione. Adesso spieghiamo quali sono i tasselli principali. C'è ovviamente una parte, la parte principale è rivolta agli sviluppatori software, perché certo. Qui si tratta di sistemi che devono parlarsi, integrarsi l'uno con l'altro, certo. Giusto? È il sistema della banca che dialoga attraverso l'API, che è sostanzialmente un sistema software di dialogo tra sistemi. Il sistema della banca, il sistema delle imprese, anche il gestionale delle imprese, si parlano direttamente attraverso sviluppo software. Questo è il meccanismo. Sì, molte cose che succederanno, perché diciamo, questa è una iniziativa che voi avete appena lanciato, che si svilupperà nei prossimi mesi. Esatto. Non è che è tutto pronto. No, non è tutto pronto. Siamo partiti con i primi tasselli di API messi a disposizione, basate sul conto corrente, quindi conto corrente, saldo, lista movimenti, bonifici, tutto quello che si può fare sul conto corrente, e a seguire arriveranno le carte, conti titoli, conti di moneta elettronica e così via. Sono tutti tasselli tassellini fondamentali di base che consentono alle imprese poi di creare attraverso una forte dose di immaginazione e di personalizzazione i propri servizi al proprio interno. Ovviamente il destinatario finale di tutto ciò sono o le aziende o i consumatori finali, cioè noi esatto. vedremo nei prossimi mesi, non solo da Banca Sella ma da tutte le banche, poi capiremo perché, una serie di nuovi servizi che sono, diciamo, come tu dicevi, disponibili alla fantasia, all'immaginazione, perché molti non ce li possiamo nemmeno immaginare, che derivano da una novità normativa, una direttiva europea che obbligherà il sistema bancario dal prossimo anno ad aprirsi, come voi appunto state sì. facendo. Mi fai un esempio per un vostro cliente che voglia sfruttare e utilizzare questo nuovo approccio della banca? Allora sì, ti faccio un esempio legato a un corriere molto noto. Quelli che consegnano i pacchi. Quello che consegnano i pacchi, che ci ha chiesto sostanzialmente di poter utilizzare le API per capire quando arriva il pagamento e fare in modo che il pacco non venga scaricato dal camion se il pagamento è arrivato. Questo perché il corriere ha il suo business model che si basa sulla velocità di consegna, quindi tutti i tempi morti determinano per lui un peggioramento del servizio. Questa automazione di processo che gli consente di leggere il saldo e quindi di reindirizzare il pacco immediatamente gli accorcia notevolmente i tempi di consegna. Quindi vuol dire che il sistema gestionale del corriere parla con i sistemi della banca e automaticamente decide delle cose. Esatto, è proprio così. È proprio quindi così. C'è effettivamente una parte di sviluppo software, cioè questa parte di personalizzazione dei servizi è importante, fondamentale. È importante, fondamentale e soprattutto è diversa azienda per azienda. Quindi il valore aggiunto del mettere a disposizione l'API è che il pallino non è più in mano alla banca che standardizza un prodotto e lo mette a disposizione dell'azienda, ma è l'azienda che prende gli elementi fondamentali, gli atomi della banca, e li inserisce all'interno del proprio gestionale. Certo, potranno cambiare anche i modelli di business e potranno nascere anche delle società nuove, delle start-up che fanno cose nuove sfruttando questa apertura della banca. Questa nascita è non solo inevitabile, sarà esponenziale sempre di più. Ci sarà un fiorire di realtà di questo tipo che hanno necessità di automatizzare processi per supportare i propri modelli di business, non soltanto nell'ambito bancario ma in tutti i modelli. Gli esempi sono i più disparati: marketplace, un esempio per tutti, chi intermedia lavoro. Ci sono degli intermediari del lavoro che mettono insieme chi cerca lavoro con chi offre lavoro. Il fatto di gestire i pagamenti in modalità molti a molti, tra molti che cercano lavoro e molti che offrono lavoro, viene consentito proprio da questi sistemi. Certo. Senti, questa direttiva europea appunto obbliga il sistema bancario ad aprirsi nella modalità che tu ci hai descritto. Molte delle conseguenze che noi vedremo nei prossimi anni riguardano anche noi cittadini consumatori. Che cosa potrebbe succedere? Perché alcune cose ce le possiamo già immaginare, perché già si sta abbozzando, ci sono già delle start-up che stanno proponendo alcuni servizi, altri effettivamente siamo qui in attesa della fantasia che esploda in tutte le direzioni. Dunque, la cosa più probabile e più visibile nel breve è che si moltiplichino le applicazioni legate ai pagamenti e alla gestione del conto corrente bancario, o generalmente del conto bancario, fatte da società che non sono banche ma sono piattaforme tecnologiche, quindi interfacce, applicazioni vere e proprie che vanno a leggere il saldo del conto su una qualunque banca, italiana e non, usando un'interfaccia totalmente diversa rispetto a quella dell'home banking della banca stessa. Quindi se per esempio a me piace l'interfaccia utilizzata dalla società XY, che è una società tecnologica, e preferisco usare quel tipo di interfaccia, io vado su quel sito, su quell'app, e autorizzo quell'app a leggere il mio conto corrente. Questa è la cosa probabilmente che immediatamente sarà più visibile. La stessa cosa con i pagamenti. la lettura diretta della carta di credito, l'utilizzo di sistemi di pagamento attraverso società che non sono banche. L'esempio più evidente è PayPal oggi, ma ne fioccheranno altre, ce ne sono molte che vanno in questa direzione. Certo, probabilmente diventeranno anche più snelli servizi che già noi oggi utilizziamo, ma che in mezzo tra i servizi che noi utilizziamo e la banca magari ci sono dei pezzi, dei gestori oppure delle altre società che gestiscono, esatto, questo rapporto. Invece la disintermediazione aumenterà molto. Sì, allora la disintermediazione aumenterà. La domanda che verrebbe spontanea è la banca che tipo di approccio avrà e che tipo di timore ne ha. Cioè, che cosa ci guadagna anche la banca? E che cosa ci guadagna? Allora, la nostra posizione è questa: al di là dell'obbligo normativo che comunque c'è, comunque la PSD2 non impone alla banca di posizionarsi in una determinata maniera. Noi possiamo scegliere di essere o propositivi e positivi verso questa direttiva e non vederla solo come un aspetto normativo, oppure di aspettare e agire semplicemente come un obbligo normativo. Abbiamo scelto la prima, quindi noi pensiamo che allearci e facilitare le fintech piuttosto che tutte queste realtà che nascono abilitarle a svolgere il loro modello di business sia un altro modo per fare banca in un mondo che cambia, in una realtà, certo, che cambia. Certo. Anche perché, visto che l'evoluzione tecnologica, al di là di quello che dicono le norme, che comunque sono molto importanti e a volte agevolano e aprono dei mercati, però la tecnologia evolve, quindi un atteggiamento positivo è auspicabile da parte di tutti i player. Sì. Così come i tassisti che in alcuni casi osteggiano il mondo delle app, qualunque esse siano, ma invece ci sono tanti tassisti che hanno capito benissimo che il mondo va in quella direzione, ma certo, è una forma mentis. Adesso uso l'esempio del taxi perché è facile e va sulle cronache molto spesso. Una cosa che un altro esempio che potremmo fare saranno gli aggregatori, e questo fa capire molto bene che cosa potrà succedere. Io magari ho un'applicazione e tramite quella unica applicazione potrò gestire più conti correnti, quindi quella applicazione riuscirà ad entrare nella banca A, nella banca B, nella banca C, e io in un'unica app o in un unico servizio internet potrò vedere e gestire questi conti correnti. Effettivamente la domanda chi ci guadagna e come ci guadagna è una domanda che dovrà trovare risposte nei prossimi mesi, anni. Certo, ma è molto semplice in realtà, nel senso che il dialogo per una parte del mercato non avverrà più direttamente tra la banca e il cliente finale. Ci saranno questi intermediari che hanno dal loro punto di vista una forza grande sulla UX e sulla customer experience. Loro la UX e la user experience, sì, l'esperienza dell'utente, no, e la UX è il loro punto di forza. Sì. Quindi la banca rimane comunque un background, quindi un servizio di base che serve. E la terza parte, cioè l'intermediario che dicevamo prima, forte nella user interface, rivende i propri servizi su questi prodotti di base, e il cliente finale quindi ha come interlocutore diretto la terza parte. Quindi la banca sostanzialmente è il tassello di base che fa funzionare la user interface verso il cliente finale. Certo. Senti, altri esempi che potremmo fare. Che ne so, le chatbot, questi sistemi di messaggistica dove dall'altra parte non c'è una persona, quindi possiamo immaginare WhatsApp, Telegram, ma tantissimi messenger di Facebook, insomma tantissimi altri sistemi di messaggistica, stanno nascendo dei servizi dove dall'altra parte c'è una macchina che a esatto, volte risponde male, molto spesso non è così intelligente come ci viene proposta, però ci sono insomma, dei servizi che già cominciano a essere interessanti. Che cosa c'entra tutto ciò con, ad esempio, la banca? C'entra in quanto i chatbot possono risolvere delle problematiche di assistenza alla clientela e risolvere delle problematiche sia nell'operatività concreta, quindi fare direttamente delle operazioni di bonifico o di altro genere, pagare le bollette, operazioni di questo tipo, e possono dialogare con il cliente finale anche per quanto riguarda i loro investimenti. Quindi sono basati su intelligenza artificiale sottostante, che ovviamente, essendo intelligenza artificiale, deve imparare, gradualmente impara. Fino ad oggi il limite forte è stata la lingua, perché i chatbot e in generale l'artificial intelligence si è sviluppata molto in ambito UK e US, cioè, quindi lingua inglese, totalmente in lingua inglese. L'interfaccia verso il cliente finale consente sostanzialmente di andare su grandi numeri, offrendo dei servizi sempre più personalizzati e intelligenti. Quindi, sempre a proposito dell'apertura della banca, vedremo dei sistemi di messaggistica che potranno interfacciarsi con Banca Sella nel vostro caso, o un'altra banca in un altro caso. Esatto. Che possono proprio entrare nei sistemi. Non entrano nei sistemi. Comunque si interfacciano con il sistema. Si interfacciano con il sistema, ovviamente questo presuppone l'autorizzazione del cliente sempre. Certo. E interfacciandosi con i sistemi consentono di dialogare direttamente one to one col cliente finale, e arrivano a un livello di personalizzazione che umanamente non sarebbe possibile. Certo, voi siete partiti adesso quasi un anno prima dell'obbligo di legge, e pensate che tutto questo mondo che abbiamo descritto esploderà velocemente o ci vorrà un po' di tempo? Personalmente io penso che l'arco temporale sia di 3-5 anni. Dalla partenza della PSD2 si stanno già vedendo i primi effetti dal nord Europa in giù, quindi noi siamo nell'ambito europeo, siamo diciamo un po' gli ultimi che arrivano, ma che hanno anche la possibilità di vedere quello che all'estero succede, e certo, quindi di imparare, acquisire e possibilmente di non fare gli stessi errori, di copiare. Bene, Doris, grazie per essere stata con noi. Grazie a te. E buon lavoro. Grazie a te. Adesso per noi c'è una breve pausa, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, a tra poco. Riprendiamo questa puntata, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica 13:30-14, con una breve replica. Ma come sempre vi ricordo il nostro super podcast, tutte le nostre interviste nell'edizione podcast in versione integrale. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete raggiungermi, è 2024@radio24.it. Potete cercare Enrico Pagliarini oppure 2024 anche su Facebook oppure su Twitter. A proposito di startup e di fintech, segnalo che questa settimana Soldo ha annunciato un finanziamento da 11 milioni di dollari. Soldo è un'azienda fondata da Carlo Gualandri che serve per gestire spese sia della famiglia o dell'azienda. Dipende se utilizzate Soldo in versione consumer oppure Soldo Business, che è la versione per le aziende. Adesso parliamo di uno dei sistemi di pagamento emergenti più interessanti, perché si basa solo e si connette al conto corrente e quindi all'IBAN, ed è svincolato dai circuiti di carte di credito. Parliamo di Satispay, che ha annunciato un accordo con Esselunga. Alberto Dalmasso, fondatore, cofondatore, amministratore delegato di Satispay, bentornato a 2024. Grazie. Allora, dice qualcosa di più di questa novità che avete annunciato questa settimana? Per noi è un grande traguardo, estremamente importante, frutto di un lavoro di quasi un anno del nostro team commerciale e del nostro team tecnico, con le persone di Esselunga e di NCR, che è la società che gestisce e sviluppa il software di cassa di Esselunga. Quindi da questa settimana già nel negozio di Segrate, dalla prossima in un superstore di Milano e Via Losanna, sarà possibile pagare con Satispay, e dentro l'estate in tutti i loro 154 supermercati, Bar Atlantic e negozi della catena Esselbella. Tu hai citato il software di cassa, perché qual è la difficoltà tecnica, o comunque più che una difficoltà, quali sono i problemi tecnici da risolvere? Diciamo che la grande catena è focalizzata sull'ottimizzare sia il tempo di esecuzione del pagamento, ma anche e soprattutto su non impattare le loro procedure interne contabili, di gestione delle eccezioni del reso, e evitare praticamente il più possibile la formazione al personale. Quindi l'unico modo per rispondere a queste esigenze è sviluppare da parte dello strumento di pagamento un'integrazione con API verso il registratore di cassa, di modo che prima di tutto non debbano aggiungere nulla in cassa, nessun dispositivo dedicato all'accettazione di Satispay, ma quello che hanno già funziona. Poi in questo caso specifico l'utente di Satispay continua a pagare come fa in tutti i negozi, quindi dice sono da Esselunga, digita l'importo e la cassa riconosce l'importo, se è corretto lo accetta automaticamente. In questo modo il cassiere non deve fare nulla, corre neanche il rischio di accettare un importo sbagliato, poiché questo è tutto controllato dalle integrazioni che abbiamo fatto appunto con il loro software. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che Satispay è un sistema di pagamento, è un borsellino elettronico virtuale sul nostro smartphone che è svincolato dai classici circuiti di carte di credito o bancomat. Ricordiamo come funziona Satispay e come si attiva e come, diciamo, qual è poi la rete di accettazione che esiste già in Italia. Sì, Satispay ha proprio nell'essere indipendente dalle carte un fattore distintivo, forse il più importante. Abbiamo notato che molto spesso ancora ci dicono di no al pagamento con carta, abbiamo quindi deciso di creare un sistema completamente indipendente, quindi chiunque abbia un conto corrente, non importa quale sia la sua banca, il suo operatore telefonico, il suo smartphone, si può scaricare Satispay e utilizzarlo collegando il suo codice IBAN. Una volta collegato il codice IBAN decide un importo settimanale di cui vuole disporre, noi addebitiamo il conto corrente di quell'importo e da quel momento il denaro può essere speso sia per inviarlo alle persone che si hanno nella rubrica telefonica, come si mandasse un messaggio WhatsApp, sia per pagare nei negozi, sia per pagare online o per fare donazioni. Non ha commissioni sotto i 10 euro e costa solo 20 centesimi per gli incassi sopra i 10 euro all'esercente, per il consumatore è sempre gratis, così la solita non si accettano carte sotto i 10 euro, diciamo, la stiamo risolvendo con una gratuità sotto quell'importo. Sì, una scusa che non può più essere utilizzata. Ovviamente voi essendo nuovi, diciamo, una startup in questo settore dei pagamenti, dovete costruirvi una rete di accettazione proprio per il motivo che tu dicevi, cioè siete svincolati dal sistema di carte di credito. Se aveste deciso di utilizzare il sistema di carte di credito, la rete di accettazione era già stata fatta perché vi sareste basati su una rete di accettazione che esiste da anni. Questo è per voi è forse una delle difficoltà maggiori. Beh, sicuramente avessimo fatto un sistema basato sulle carte come tutti i principali attori come Apple, Google, Samsung, avremmo la rete di accettazione già in piedi, però l'85% dei pagamenti è ancora in contante proprio perché spesso i negozianti, soprattutto i piccoli esercenti indipendenti, non le vogliono accettare sotto certi importi, quindi abbiamo preferito costruirci una nostra rete partendo da zero e potendo passare un messaggio forte di qualcosa di veramente diverso. Grazie a questo messaggio siamo oggi a 17.000 aziende attive nell'accettare pagamento con Satispay, che crescono di 70 ogni singolo giorno. Senti, quali sono le difficoltà maggiori che voi osservate sul mercato quando parlate con chi deve accettare pagamenti elettronici? Perché io continuo a dire, per l'esercente ci sono tantissimi vantaggi, da quello della sicurezza, perché non mi fanno più la rapina se non ho soldi in cassa, ma insomma tantissimi altri. Però che tipo di ostacoli trovate, incontrate? Ma diciamo che sul piccolo negoziante bisogna rompere un po' il ghiaccio dimostrando di essere veramente trasparenti e avere un qualcosa di differente, perché ci sembrano tutti un po' stufi di non avere ben chiaro quanto finiscono a pagare. Mi spiego meglio, magari hanno una commissione bassa sull'incasso, però poi hanno un costo per ogni riga di registrazione sul conto corrente, piuttosto che un'altra società che fornisce il POS su cui c'è un canone diverso. Quindi c'è un po' questo essere disillusi del fatto che ci possa effettivamente essere un attore sul mercato che ti propone qualcosa di così conveniente, di così efficace. Quindi quasi all'inizio bisogna fargli credere che sia vero, che non c'è un canone, che non ci sono commissioni sotto i 10 euro. Poi una volta che lo colgono, o perché sono tra gli early adopter, quindi diciamo quei uno su cinque che quando arriviamo in una nuova città lo capisce subito, si attiva, oppure perché quando iniziamo ad avere un po' di negozio in una città abbiamo una buon passaparola da quelli attivi. Per le grandi aziende devo dire che in Italia si vede un pochino di scetticismo anche lì, qua dico forse perché il management in Italia mediamente è più in là con gli anni rispetto a quelli per esempio delle catene della grande distribuzione francese o di altre aziende di altri paesi europei, e quindi vedono la tecnologia un po' come un progetto con qualche problema, che si porta dietro qualche problema in più da gestire, mentre è chiaro che se la linea decisionale fosse under 40 o sui 40 ci sarebbe un livello di decisione più alto, però gli early adopter ci sono anche lì e Esselunga ha dimostrato di essere uno di questi. Sì, diciamo che Esselunga sicuramente sul lato pagamento elettronico è sempre stata molto avanti. Dico una cosa che sembra banale, invece poi nella esperienza utente è fondamentale: il POS ti si presenta proprio davanti, quindi quando uno decide di pagare con carta non c'è la cassiera che deve spostare il POS con una procedura che a me pare ormai del passato, un po' medievale. Ti faccio un'ulteriore domanda su un particolare che a volte forse sfugge. Il contante può sembrare strano, ma ha un costo, soprattutto per i grandi esercenti che devono movimentare attraverso società esterne. Pensate, furgoni che trasportano contante da un punto all'altro, che lo portano nelle banche. Quanto costa? Che peso ha? Ma diciamo che i più organizzati stanno su 1,06%, si può arrivare fino all'1,5% di costo della gestione del contante, se escludiamo poi chi gestisce le macchinette automatiche su cui falsi, furti eccetera lo fanno arrivare a volte anche al 10%, infatti danno sconti se si paga con carta. Poi il vero costo è quando per esempio sui distributori di carburante rischiano la vita, spesso effettivamente nelle rapine scappa anche il morto, perché pur avendo dei margini bassi hanno decine di migliaia di euro in contanti ed è sempre, sempre rischioso. Sì. Detto questo, però, noto che soprattutto le grosse catene potrebbero avere una gestione del pagamento digitale un po' più smart, cioè potrebbero proporlo e promuoverlo un po' di più. Mi sembra che non si esageri, forse perché la gente tende a voler usare il contante ancora. Ma anche qui c'è chi sta facendo da apripista, e più sono grandi le aziende più tendono a fare benchmarking, quindi a vedere se già qualcun altro si sta muovendo. Esselunga si muove, infatti devo dire abbiamo avuto una attenzione estrema da parte loro anche a farci partire subito col pagamento anche sulla unattended, quindi sul distributori automatici, sulle casse automatiche. Stiamo vedendo effettivamente noi che un po' tutta la GDO adesso ci cerca per muoversi nell'attivazione di cose nuove. Penso anche che questa settimana sia stata una settimana particolare, perché questa mossa di Amazon su Whole Foods, se già la GDO si stava interrogando su quanto fosse indietro rispetto all'e-commerce, con l'e-commerce per eccellenza che entra nel mondo fisico, penso che tutti quanti si stiano mettendo un po' più di fretta e sanno che il pagamento può essere un punto di svolta. Bene, grazie ad Alberto Dal Masso per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Grazie. E tra poco noi parleremo di telefonia, adesso c'è un'altra pausa, riprendiamo tra poco. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. Bentornati, riprendiamo questa puntata di 2024, questa è l'ultima sezione del nostro programma. Vi ricordo che la nostra edizione podcast, che ormai chiamiamo Super Podcast, contiene tutte le nostre interviste in versione integrale. Tra poco parleremo di telefonia e di nuovi servizi, e uno potrebbe pensare, beh, le telefonate sono in declino. Certo, questo è un fatto, soprattutto se si guarda la porzione più giovane della popolazione. Se guardate il traffico telefonico di un giovane, il traffico che fa con lo smartphone, beh, noterete che la parte di messaggistica e la parte di dati viene consumata quasi tutta, o comunque tutta, nell'arco del mese o delle 4 settimane, e invece la parte di telefonate rimane quasi intoccata. Ma la voce sarà, dicono gli esperti, ma io credo che sia vero, beh, sarà molto importante come mezzo per interagire. Alcuni dicono sarà il metodo principale, il modo principale per interagire con le macchine. Non è forse ancora così chiaro nel nostro paese, in generale in Europa, perché fino adesso gli assistenti virtuali con i quali si può interagire sullo smartphone non hanno preso tantissimo piede. Negli Stati Uniti e in qualche altro paese, da ormai circa un anno sono stati lanciati degli strumenti che richiedono invece un'interazione vocale con la voce. Amazon Echo, che si connette ai sistemi di intelligenza artificiale di Amazon, e Google Home, che sfrutta i sistemi di intelligenza e quindi l'assistente virtuale di Google, sono degli aggeggi che vengono messi in casa, sono collegati ad internet e ci ascoltano, e noi possiamo interagire con loro parlando con la voce. C'è chi dice, gli esperti dicono, che la voce sarà l'interfaccia utente del futuro. Questa è una tendenza molto chiara di cui abbiamo parlato e sicuramente riparleremo a 2024. Ma la voce che ancora oggi utilizziamo tramite il telefono rimane comunque molto importante. Certo, è un vecchio modo di interagire, quello che ho descritto poco fa sarà il modo di interagire soprattutto con le macchine nei prossimi anni, nel futuro. Il metodo che utilizziamo oggi tramite la voce per interagire è quello con le persone, diciamo, alla vecchia maniera. Le telefonate rimangono importanti, ma nel mondo della telefonia sono successe tante cose, si possono fare ancora molte innovazioni, e ne parliamo con Marco Fiorentino, che è l'amministratore delegato di MessageNet. Parliamo di telefonia VoIP, di nuovi servizi. Marco, benvenuto a 2024. Grazie. Voi vi occupate di telefonia, giusto? Corretto. Siete un operatore telefonico particolare perché siete tra i principali operatori di VoIP, Voice over IP. Potrebbe sembrare complicato, invece è una delle cose più facili. Tra l'altro anche tecnologicamente una delle cose più anziane nel mondo della telefonia, dico bene? Sì, corretto. Il Voice over IP si è sviluppato parecchi anni fa, noi siamo stati fra i primi operatori in Italia a lanciare servizi basati su questa tecnologia. È una tecnologia che permette di fare transitare la voce sugli stessi canali, sulla stessa infrastruttura che viene usata per portare internet, per cui per la navigazione e gli altri servizi di internet. E piano piano si sta andando verso l'unificazione delle reti, e quello che si vede è che piano piano internet sta diventando un po' diciamo l'autostrada principale sulla quale tanti altri servizi, fra i quali anche quello della telefonia, che prima aveva una sua rete separata, sì. Transita. Questo per quanto riguarda la parte fissa. Sì. Sulla parte invece mobile continuiamo ad avere il GSM e tutte le sue evoluzioni come standard per il trasporto della voce, e lì ancora invece c'è una separazione. Sì. Questo però chissà, magari cambierà quando ci sarà una diffusione massiccia, ma ne parliamo fra 3-4 anni, del 5G. Potrebbe succedere la stessa cosa, cioè che l'infrastruttura principale sia internet e poi sopra ci passa anche la voce, quindi il voice over IP. Senti, da un certo punto di vista, quello che abbiamo appena detto ci sta dicendo che le cose succedono sempre più lentamente di quello che ci si aspetterebbe, perché io ho parlato le prime volte di Voice over IP nel 2002, 2004, 2005, e sembrava che il giorno dopo insomma la prospettiva sarebbe stata quella, cioè che l'infrastruttura sarebbe stata internet e anche la telefonia, quindi anche la voce, sarebbe stata tutta sopra internet. Invece poi le cose sono più lente. Sì, è vero, noi vediamo ancora una crescita dell'adozione della soluzione VoIP in ambito corpo, in ambito aziendale, mentre diciamo sarebbe naturale pensare che per un'azienda, essendo molto più semplice avere solo un bocchettone invece di dover avere la linea internet e poi le vecchie borchie telefoniche, gli SDN per esempio, uno ci sarebbe aspettato che questa transizione sarebbe arrivata più rapidamente, anche perché le borchie telefoniche hanno un costo, soprattutto per le aziende. Quello che è vero però è che c'è un parco installato di centralini magari che hanno una certa età ma che funzionano ancora bene per le funzioni di base, e per quindi cui si continua. Sì. E solo quando c'è la sostituzione del centralino con un centralino VoIP, allora si abbandonano le vecchie borchie, si migrano i numeri telefonici su un operatore VoIP e si passa a un'interconnessione VoIP. Con il VoIP tutto diventa più semplice, tutto diventa più liquido. Faccio io un esempio, poi ti chiedo quali sono i vantaggi, 1, 2, 3, non farmene una lista di 10, del Voice over IP, del VoIP. Io ho un numero di telefono VoIP, che è uno 02, eccetera, eccetera. Lo posso utilizzare anche con un'applicazione su, ad esempio, un tablet, su un iPad, e l'importante è che ci sia internet e io sono raggiungibile da quello 02 a quello 02 e posso anche telefonare con quello 02. Ad esempio, mi sposto all'estero, posso continuare a utilizzare lo 02. Quindi si svincola la fisicità, la localizzazione di un numero di telefono e la si mette su internet. Pensiamo ad esempio a Skype. Skype è un esempio di Voice over IP. Quali sono gli altri vantaggi? Allora, sicuramente questo vantaggio è molto importante e ci sono esempi di applicazioni, fra cui un'applicazione di Messenger che viene usata proprio in questi contesti. Ora il roaming in Europa più o meno è stato abolito. Sono stati aboliti gli extra costi di roaming, però per nei viaggi extra europei vediamo che viene ancora moltissimo usata questa soluzione. Perché questo è molto interessante. Gli altri vantaggi li vedo più a livello aziendale, che sono di nuovo il fatto che elimino le borchie, per cui elimino dei costi. E il centralino, e diciamo, ci sono alcuni vantaggi poi nell'avere la voce gestita in VoIP, perché a questo punto posso fare dei centralini che hanno delle funzioni più agili rispetto posso a centralini. Riconfigurare tutto facilmente, insomma, esatto. Stiamo parlando di cose digitali sostanzialmente. Esatto. Voi avete, questa è una curiosità interessante, avete anche un servizio che digitalizza il fax, che uno dice, ma perché? Sì, è vero. In realtà è il servizio col quale l'azienda è nata nel 99. Ed è un servizio sul quale abbiamo ancora svariati centinaia di migliaia di utenti in modalità freemium. È un servizio che è di una semplicità disarmante, nel senso che io ho un numero di telefono al quale è associato una casella di posta elettronica. Diventa il mio numero di fax. A questo punto qualsiasi fax che viene spedito a quel numero mi arriva automaticamente nella casella di posta elettronica. È semplicissimo, si attiva in tempo reale e in alcuni ambiti noi vediamo ancora una crescita di questo servizio, perché alla fine, per esempio, quasi tutti i biglietti da visita aziendali hanno comunque un numero fax. E le aziende trovano più comodo eliminare la vecchia macchina fax, continuare a garantire questo servizio, ma dandolo completamente in outsourcing a operatori come noi, e poi facendo arrivare il fax sulla casella di posta elettronica dell'utente, che poi rende possibile archiviare questo fax, spedirlo a un collega, insomma, gestirlo elettronicamente. Ci stiamo per virtualizzare, però ci stai dicendo che il fax è ancora molto utilizzato. Diciamo. Quello che vediamo è l'uso del numero fax, il fatto che uno abbia un numero fax è ancora strautilizzato, cioè io raramente vedo un biglietto da visita che non ha un numero fax. Poi se andiamo a vedere il volume dei numeri fax che passa è molto più basso, però la retrocompatibilità viene sentita come necessità dalle aziende. E questo fa sì che, stranamente, per un business che tutti noi ci saremmo aspettati sarebbe già morto e sepolto, sì. In realtà questa funzione di bridge, diciamo, fra il vecchio fax fisico e internet è in crescita. Sì, interessante questo. Senti, nel mondo VoIP succedono tante cose proprio per i motivi che dicevamo. È tutto più flessibile, liquido, riconfigurabile, ci si possono inventare mille cose, ma al di là delle linee tradizionali che sono comunque legate a numeri fissi, perché parliamo di zero, eccetera, eccetera. Voi avete però fatto anche una cosa interessante che si chiama mTORC, M-Talk, sì. Che cos'è? Che è diciamo, sotto ci sono sempre i sistemi di cui abbiamo parlato, però è una cosa un po' diversa. Sì, dunque, M-Talk è un'applicazione che viene associata tipicamente a un numero fisso che fra l'altro viene fornito gratuitamente, per cui l'utente viene ad avere un suo numero fisso del prefisso di sua, diciamo, residenza. Ed è, oppure anche qualcos'altro, cioè se uno vuole fare finta di avere l'ufficio a Milano si prende uno 02 eccetera eccetera. Ci deve dare un domicilio. Ah, vi deve dare un domicilio, sì, va bene, ok. Se no la legge, okay. La legge non ce lo permette. Ok. E, come dicevamo prima, certamente una funzione molto interessante è quella di poter portare questo numero con sé ovunque uno sia, anche all'estero, per cui di poter ricevere chiamate da un italiano che fa per cui una chiamata nazionale anche quando sono, che so, in Medio Oriente, negli Stati Uniti, no? Sì, Stati, sì, Uniti, certo, eccetera. E anche in senso contrario di fare delle telefonate da dove mi trovo al resto del mondo a delle tariffe, diciamo, italiane e non delle tariffe internazionali. Sì, sì. Abbiamo aggiunto anche delle altre funzioni forse un po' avveniristiche, che è la possibilità non solo di avere un numero, ma di avere un indirizzo web al quale uno può essere contattato gratuitamente solo cliccando da parte di chi mi vuole contattare. Questo è stato lanciato qualche anno fa e abbiamo scoperto che viene usato molto dalle aziende che lo mettono nel loro sito web, in modo che poi chi naviga può dal sito web cliccare e parlare direttamente con l'azienda, scambiare anche messaggi con l'azienda, meno dai privati, non ha preso nell'ambito privato. Però diciamo che tra me e te noi potremo dialogare con l'applicazione vostra che gestisce M-Talk con questa stringa web. Yes, sì, e la nostra idea era quella di dire, dopo tutto, voglio dire, noi siamo abituati a chiamare una persona con un numero di telefono, no? Ma ci siamo detti, ma perché deve essere un numero di telefono? Non avrebbe più senso il mio nome, punto il mio cognome, punto, in questo caso messagenet.net come indirizzo, non sarebbe più facile ricordare. Questa è stata un po' la nostra idea, la nostra scommessa. Sì. Altre cose che vi siete inventati, recentemente avete lanciato una cosa, un servizio che si chiama Liber, con la Y, Liber. Che cos'è? In questo caso stiamo andando un po' oltre, nel senso che non parliamo più di telefonia fissa, perché il VoIP sostanzialmente è legato alla telefonia fissa. Questo che cos'è? Dunque, Liber parte da questa idea. Da una parte le attività commerciali sono spesso identificate da un numero fisso, e un numero fisso dà l'attività commerciale serietà. Dall'altra parte però ci sono moltissime attività commerciali, soprattutto quelle anche magari molto piccole o dove comunque la tipologia del lavoro è un lavoro che viene svolto in mobilità, dove alla fine chi deve ricevere le chiamate ha un telefono cellulare e non è necessariamente in ufficio. E per di più c'è la necessità di gestire queste chiamate in modo intelligente, di non perdere mai una chiamata di un cliente, di poter avere un risponditore, di poter avere degli orari di giorno e di notte. Allora, diciamo, Liber è un servizio che cerca di dare la rappresentatività di un numero fisso, ma di sposarlo con la mobilità del telefono mobile, e dando per di più quelle funzioni di quello che noi chiamiamo assistente virtuale, che sono quelle funzioni tipiche anche dei centralini evoluti, diciamo, più evoluti. Sì. Ecco, abbiamo voluto mettere questo al servizio veramente di chi ha un lavoro individuale o comunque un'azienda con poche persone, dove però si vuole gestire queste chiamate in ingresso, si può decidere in quale sequenza squillano, se ci sono più cellulari, se squillano in quale sequenza. Sì, o fammi un esempio di come funziona. Cioè io chiamo l'idraulico, sì, che tipicamente è in giro, cioè speriamo per lui, sì, perché così significa che lavora, ed è in giro magari però a un ufficio, con un'impiegata che ne so, sta lì alla mattina solo, il pomeriggio no. Ecco, come funziona questo servizio? Dunque, questo servizio fornisce un numero fisso, oppure si può attestare un fisso esistente a questo servizio. E poi io posso definire uno o più cellulari, o nel caso della persona in ufficio anche un numero fisso volendo, ma è molto più semplice usare un cellulare, e poi posso molto semplicemente stabilire delle regole secondo l'orario su cosa deve succedere quando arriva una chiamata. Deve squillare contemporaneamente il numero dell'idraulico e dell'assistente, oppure deve squillare prima quello dell'assistente e poi quello dell'idraulico, oppure devo andare in segreteria, che messaggio devo dare di giorno, che messaggio devo dare di notte. Ecco, tutte queste funzioni sono veramente semplicissime e rapidissime da configurare sia da telefono che da web. E poi, diciamo, succedono altre cose. Io posso vedere chi ha risposto a una chiamata in ingresso, se è stata risposta oppure no, se questo cliente deve essere richiamato. Se il cliente lascia un messaggio, perché c'è un servizio di segreteria, lo ricevo nella posta elettronica e lo posso gestire. Un'altra cosa importante per quanto riguarda per esempio l'idraulico che ha il telefono mobile e che è in giro, ecco, quando arriva una chiamata si può sapere se la chiamata era una chiamata che era arrivata sul numero aziendale, oppure se era una chiamata di, non so, un familiare o comunque qualcuno che conosceva il numero mobile dell'idraulico, per cui riesco a capire se è una chiamata di lavoro o personale. E by the way, con questo servizio non ho bisogno di dare il mio numero cellulare ai clienti. I clienti conoscono il mio numero libero, fisso, ma non mi disturbano invece sul cellulare, perché io di notte lo programmo per non passarmi le chiamate sul, certo, sul, senti, cellulare. Uno potrebbe domandarsi, ma queste cose non si possono fare con un centralino? Sì, si possono fare con un centralino, però è molto più complicato. Noi in questo caso devi installare il centralino, devi diciamo installare dei software anche sul telefonino, perché in quel caso la chiamata sarebbe in VoIP, come dicevamo prima. Invece noi in questo caso abbiamo pensato che fosse importante l'universalità del servizio e la semplicità, per cui l'idea è no cavi, no apparati, no, nulla di fisico, e si usa il telefonino come se fosse l'interno del centralino. E l'altra cosa importante è che la parte di voce non transita in VoIP, ma transita sulla rete GSM, il che vuol dire che non devo preoccuparmi se mi trovo in una zona di cattiva copertura dove non c'è il 3G, per esempio. Sì, no? funziona sempre, anche se sono all'estero, funziona sempre. E questo, secondo noi, è un elemento importante, perché qui non stiamo parlando di un utilizzo mirato, sono all'estero, sono in una stanza d'albergo, ho il wifi e voglio fare le chiamate in Italia. Qui stiamo parlando di un uso che deve essere veramente semplice, universale, deve funzionare sempre. Certo, quindi basta avere un numero fisico, cioè basta avere, diciamo, partire da un numero fisso, dopodiché si può creare questa infrastruttura virtuale fondamentalmente. Corretto, se si ha già un numero fisso lo si può portare su Liber, sì. Oppure si può ottenere in tempo reale un numero nuovo. Bene, Marco, grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie, a presto. Grazie Enrico. È tutto per questa puntata, come sempre grazie per la vostra attenzione, grazie per aver ascoltato in streaming o aver scaricato questa versione podcast del nostro programma, che come sapete abbiamo ribattezzato Super Podcast, perché trovate tutte le nostre interviste in edizione integrale. Ci risentiamo la prossima settimana, non dimenticate il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Oppure altri due canali per comunicare: Facebook, la nostra pagina Facebook, oppure Twitter. Ci risentiamo nella prossima puntata.